Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Nome: Nino Frassica. Gabriel Garco. Professione: attore. Intellettuale. Altezza: 1,92 m senza scarpe. Io 1,73 m a stomaco vuoto. Li conoscevate prima di oggi? No. No, io però conoscevo la mamma. Ah. Sì, Greta Garco. Cosa apprezzate l'uno dell'altro? Quando recita mi fa ridere. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. Devo spiegare questa introduzione perché devo in questa trasmissione essere il più possibile distaccato. Questa mattina ho registrato i sintomi palesi che mi hanno raccontato e anche dimostrato molte ascoltatrici di una nuova sindrome che si è scatenata in maniera virale alla scoccare della seconda puntata del Festival di Sanremo. Probabilmente già era latente, probabilmente le generazioni più attempate di femmine già ne erano immunizzate o probabilmente si è mostrata in una mutazione, in un retrovirus che in realtà sta mietendo vittime. La sindrome si chiama garchite. La garchite è un sistema complesso di patologie che determinano una sorta di confusione nell'animo femminile. Ha una sua versione anche maschile, la garchite, e può essere considerata una sorta di variante dell'orchite in questo caso. Ma io non ne soffro, sono totalmente immune. Da cosa è determinata? È determinata da un modello maschile che viene presentato nell'appuntamento più importante della televisione italiana, un appuntamento irrinunciabile, abbiamo parlato ieri, una sorta di evento liturgico a cui nessuno rinuncia e da cui tutti sono contaminati, anche se poi fanno gli altezzosi e non guardano la televisione. Fra i tanti elementi costanti del Festival di Sanremo, quest'anno c'è un elemento nuovo, un elemento additivo, subliminale, da una parte manifestato politicamente dalla forte presenza di una testimonianza ideologica e di civiltà, aggiungo, da parte dei cantanti in generale del complesso del Festival di Sanremo, che si dichiara, diciamo, apertamente verso quello che è il passo di civiltà da fare il nostro paese, quindi dare l'ok, dare il via finalmente alle coppie di fatto, alle coppie arcobaleno e tutto quello che consegue sulla legge che stanno appunto, che è in discussione. Ma c'è una circostanza ulteriore. C'è la presenza di Gabriel Garco, che non si capisce se in questo contesto è affine o è a contrasto rispetto a questo portato, che è una cosa nuova da affrontare, devo dire. Tutti gli analisti comunque delle variazioni del costume sono di fronte a qualcosa che non ho mai considerato prima. Gabriel Garco a tutti gli effetti è un modello di bellezza maschile, anche se è un signore attempato di 45 anni, ha questa faccia da eterno bambinone. Su Gabriel Garco si può dire tutto quello che gli uomini hanno sempre detto rispetto alle donne. Eh sì, quando noi diciamo o dicevamo, qualcuno di noi retromaschi regressi dicevano: ah, quanto mi piace quell'attrice del cinema, quanto è bella quella pop star, quanto quella cantante mi faccia sangue. Cosa ci sentivamo dire dalle nostre donne? Ma non lo vedi che è tutta rifatta? Ma non lo vedi che è piena di silicone? Ma non lo vedi cosa c'ha quello di donna? Guarda me. Beh, ecco, oggi al contrario, le donne sono di fronte a un modello maschile che incarna in sé tutto il pregiudizio possibile, che è sempre stato, diciamo, il marchio di ignominia di ogni donna piacente, attizzante, creatrice di amorosi e sensuali sensi. Beh, voi soffrite di garchite? Vi piace Garco? Vi piace in questa sua ulteriore versione, ripompata, rigonfiata, rincatramata e riassemblata? Ecco, mi fa segni Vintonti che dice: tu non devi prendere posizione. Non prendo posizione. Ma mi sono sentito dire ieri da una compassata e seria professionista: ma non puoi dire che non sia un bell'uomo. se non è un bell'uomo questo, mi dici te che è un bell'uomo? E ha perfettamente ragione, è un bell'uomo. Vi fa sangue, vi attizza, siete state affette anche voi dalla garchite, sognate Garco mentre abbracciate il vostro sfatto e puzzolente marito? 800240024, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Non sono solo su questo palco, c'è questa sera, vi ho detto, Sabrina, vi ho detto e avete visto che c'è Maddalena, ma c'è anche un grande personaggio, un grande attore che in questi giorni mi ha dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, l'ha dimostrato anche tutti noi di essere un grande uomo ed ha ricevuto tanto, tantissimo affetto. Gabriel Garco! Come va? Io bene, tu? Benissimo. Sentivo prima Maddalena che raccontava che lei ha paura che suo padre si addormenti davanti al televisore. Bene, vi voglio raccontare una cosina che mi è successa quando Carlo mi ha comunicato che dovevo presentare Sanremo insieme a lui. Io non l'ho detto a nessuno, neanche ai miei genitori. Mentre ero in conferenza stampa, e per questo mia madre adesso mi ucciderà, già lo so, ero in conferenza stampa, mi sono ricordato, ho preso il telefono e ho detto: mamma, guarda il TG1. Ah. Dopo un'oretta stavo mangiando velocemente perché dovevamo fare delle cose, mia madre mi chiama, vedo il suo numero, le rispondo e faccio: ciao mamma, lei, guarda Gabriele, ho un problema col cane, quindi dobbiamo cercare di risolverlo. Io ho detto: mamma, non ti preoccupare, guarda, il problema lo risolviamo. Ma che cosa stai facendo? Io sto mangiando. Ma dove sei? A Sanremo. Ah, peccato che non abito più, altrimenti ci vedavamo. Mamma, ci sentiamo dopo, ciao. Cioè, proprio non... Niente. Ma stasera ti guarderà sicuramente. Spero che sì, anzi, andiamo... ci sono degli amici che glielo ricordassero. Andiamo con il quarto campione in gara. È chiaro che molti uomini sono animati da una profonda invidia, ma come molte donne hanno sempre invidiato Alba Parietti, Valeria Marini, Belen Rodriguez, sempre dicendo: ma guarda, lo vedi, non c'hanno cervello, sono tutte rifatte, solo silicone, sono donne di facili costumi, guardate noi. È sempre stato un punto di riferimento della femmina artificiale, della femmina maliarda, della femmina stupida, via dicendo, semplicemente perché avevano degli orpelli esteriori che in realtà le condannavano all'ignominia. La stessa cosa sta accadendo da parte della popolazione maschile nei confronti di Gabriel Garco. Gli uomini da due giorni stanno convincendo le loro fidanzate, compagne, mogli, amanti, compagni occasionali di vita del fatto che Garco sia farlocco, sia gay, sia tutto rifatto, sia tutto imbottito, non sia nulla, sia stupido, sia scemo. E più dicono questo, più rafforzano l'idea che in realtà sia il modello di maschio che abbiamo sempre cercato, sia l'uomo vero, sia l'uomo che tutti vorrebbero accanto, o perlomeno è l'uomo per sognare. Guardate, è vera questa cosa della garchite. Io avevo un po' calcato le tinte all'inizio perché mi piace sempre giocare col paradosso. Mi manda in questo momento un'ascoltatrice una foto, devo dire per alcuni versi orripilante, che non ripubblicherò mai, della sua mano e soprattutto del suo dito medio. Dice: tu scherzi, a me è venuta davvero la garchite. A forza di commentarlo, un dito che pare quello della rana Kermit. E sai, questo dito tu m'hai fatto, per l'abuso che ne ha fatto. Con quel dito lei ha... allucinato, tramite naturalmente social network, quella che era la sua profonda passione per Garco. Quindi perché mi arriva anche un comunicato politico delle Signore del Fuga, che ricordo è il gruppo che è nato praticamente sotto il nostro osservatorio, le femmine urbane grandi astensioniste, che hanno fatto il loro documento e questa mattina cercheranno di lanciare per quanto possibile un'azione politica contro la garchite, contro Gabriel Garco, che ha creato questo tipo di fenomeno. Abbiamo in questo momento, visto che la presidentessa del Fuga che stiamo cercando, anche lei pare sia al pronto soccorso per questa sorta di sintomo secondario della garchite, che è il dito, l'ispessimento del dito medio, abbiamo Laura del Fuga. Laura, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei rappresenta il Fuga a tutti gli effetti questa mattina? Rappresento il Fuga a tutti gli effetti con grande onore e devo dire che finalmente il design è entrato a Sanremo. Quindi grandi designer internazionali hanno apportato il loro contributo arricchendo le nostre case con oggetti, lampade, oggetti di cucina, di design, piatti meravigliosi, divani strepitosi, e finalmente abbiamo anche noi un soprammobile nuovo, un soprammobile vivente da mettere vicino, però ahimè non all'ultima lampada di Philip Stark, ma vicino alla gondola che si illumina, al Papa Giovanni XXIII che viene retroilluminato dalle lucine pseudo cinesi, e il carrettino siciliano, ecco, e a fianco avremo il nostro come si chiama? Gadget, Gabriel Garco. Ero già dimenticato il modello. No, senta, ma però scusi, Laura, per farmi capire bene, perché non è ben chiara la vostra posizione. La sua ironia dice: la RAI ci propone un modello maschile che altro non è che una versione modello IKEA, quindi serializzata e alla portata di tutti, di quello che è il farlocco stanco, che è l'uomo che in questo caso era più rappresentato da Nino Frassica. In quel duetto Frassica-Garco in realtà erano due generazioni di farlocchi, secondo me, contrapposte. Frassica rappresenta il classico farlocco nazionale, il protagonista della nostra commedia all'italiana, Lino Banfi ai tempi di Edith Fenech, l'uomo in fondo disfatto fisicamente ma dotato comunque di una robusta e non celata lussuria che in fondo rappresenta una sorta di antitesi alla donna maleata. E Garco è Garco, il nuovo modello, come dite lei, quello che si monta con la chiave a brugola, che si porta a casa e si usa come soprammobile. Esatto. Un uomo che non ha assolutamente senso di esistere se non per mettere vicino alla porta d'inverno per riparare dagli spifferi dell'aria fredda, perché con tutto il silicone che ha evidentemente farà da paraspiffero, no? È inconcepibile un uomo del genere, credo che non sarebbe neanche divertente. Però voi state imitando però, Laura, se mi permette, state imitando un pregiudizio tipicamente maschile, tipicamente femminile, che negli anni è stata la risposta a tutte le pulsioni, se vuole anche immotivate o mal collocate, degli uomini quando hanno cominciato a vedere la nuova generazione di dive che in realtà avevano soppiantato gli strumenti organici del fashion da strumenti sintetici. E quella è tutta rifatta. Ti piace quella o non vedi che c'ha le tette finte? Ti piace quell'altra o non vedi che c'ha il culo rifatto? È tutta silicone. Voi dite esattamente la stessa cosa di Garco. Guardate che è drammatico questo. Perché probabilmente non è ben distinto il genere, perché se lo fa una donna va bene, ormai ci siamo anche abituati, se lo fa un uomo probabilmente non ci siamo ancora abituati, però il genere è molto labile in questo senso. Sentiamo grazie, buongiorno. 800 24 00 24, soffrite di garchite, è una sindrome da cui riuscirete a immunizzarvi oppure sarà un cammino che andrà avanti in maniera irresistibile e da Garco poi avremo tutti i cloni di Garco. Grazie. Io di garchite non soffro, ho 48 anni, quindi diciamo pure che l'ho visto un pochino venire su. Vabbè, è suo coetaneo Garco, non è che sia un bambino, anche se la faccia la bambina. Sin da quando era ragazzo, che è cresciuto, sempre meno mi piace, non mi è mai piaciuto, neanche come attore, non mi è mai piaciuto. Quando stiamo parlando però del talento artistico, parliamo certo, di quel sano furore da maschio che dovrebbe trapelare da Garco. Certo, no, non mi è mai piaciuto e crescendo mi è sempre piaciuto meno. Ma non è atteggiamento, il suo non è atteggiamento un po' snobistico, per dire... Non sono cambiati i tempi. E in fondo anche l'uomo questo deve essere. Oddio, i tempi ormai sono questi, questo è, ci adattiamo a questo, può piacere, veramente se adesso io vorrei però, grazie, smarcarla un attimo, perché noi facciamo finta molte volte di assecondare le donne, le signore, le amiche che ci dicono: ma non vedi quella che tutta rifatto? Cioè, sì, che schifo, però tutto sommato un pezzerino ce lo fa. Cioè, vabbè, chissà che effetto fa saltellare sul materassino gonfiabile. Cioè, una volta uno vuole provarlo. A lei non verrebbe la stessa tentazione di una volta tanto provare l'ercolino sempre in piedi per capire che succede? No. Categoricamente no. No, vabbè, grazie, è un atteggiamento, un atteggiamento che rispetto. Anna, buongiorno. Buongiorno, senta, stavo seguendo la trasmissione e da dire il vero io non mi ero accorta che fosse siliconato. La cosa che ma mi non è che lo guardi, è un'ipotesi, non ho nessuna certezza e non l'ho mai detto. No, ma non è per carità di Dio. Diciamo che collazionando alcune immagini del Garco di qualche mese fa o qualche anno fa, si nota una tumescenza ulteriore, un appiattimento ulteriore. Potrebbe anche essere... Il Garco è stato un prodotto nuovo di ieri sera, non seguivo neanche nuovo, il festival. È un prodotto vecchio, c'ha 45 anni. Sono stata attratta, tra virgolette, da questa immagine, non lo so, non so esprimere bene il concetto, mi ha fatto impressione negativa ovviamente, perché era una specie di manichino senza nessuna barlume di esistenza interiore, ma non parlo di grandi cime, ma non so, mi sembrava un manichino e basta, ma ha fatto senso, devo dire la verità. Guardi, non sono ma senso una parola un po' pesante, però Anna, no? Sì, mi ha fatto senso e non è uva acerba, non sono affetta da sindrome e forse questo è il mio atteggiamento, è dettato dall'età. Ho 70 anni, è vero, ho 70 anni, però credo ancora di essere in grado di giudicare una persona, in questo caso un uomo. Mi fa un antidoto alla garchite. Chi è invece l'uomo che secondo lei ha tutte le caratteristiche che non ha Garco? Ma guardi, una persona normale, non è lì in atteggiamento quasi statico, ma soprattutto statico. È una cosa impressionante la staticità di quella persona. Quindi la staticità non le dà l'impressione di una vigoria e vivacità di Lombi, quindi non sarebbe un buon amante un uomo così scarso. Ma guardi, ma io devo dire, data l'età, non ne faccio neanche un... giudicare può sempre giudicare. Io dico proprio di immagine estetica. Era come le ho detto, a lei è sembrata un'immagine forte, ma a me ha fatto senso, devo dire la verità. Proprio una persona così... Allora, mi sembra chiaro, noi ci fermiamo un istante. Abbiamo dato un ventaglio piuttosto vasto di reazioni delle nostre ascoltatrici. Rimane il mio desiderio di capire fino in fondo che quale sia il vero atteggiamento della donna affetta da garchite. Se qualcuno di voi in realtà la garchite, che mi sembra che qua adesso siamo diventate tutte scolarette o tutte raffinate ricercatrici di uomini profondi e simbolicamente assorti nella visione metafisica dell'assoluto, in realtà Garco rappresenta sì un manichino, ma un manichino che probabilmente dal punto di vista di chi gli piace il genere potrebbe uno pensare sì, ma me lo spupazzerei volentieri, o sbaglio? 800 24 00 24, tra un istante con la garchite. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog. Cronache meridiane. Anche la barzelletta che ha raccontato del cane, non si è capito niente. Quale prima? Sì, non era una barzelletta. Ah, non era una barzelletta, non abbiamo capito niente. Senta, no, voglio dire una cosa, però basta con questa polemica se lei è solamente un attore, se è un super balletto, un co-conduttore. Ma infatti, non si fa prima a dire che è tanta roba. Beh, dai. Ecco, questo è un termine che viene molto ripetuto in rete, nelle chat, nei social network dove le donne si scambiano i commenti su Garco. È tanta roba. Finora questo è un termine che era stato usato soltanto nei più sordidi recessi del maschilismo, nelle osterie, nelle trattorie, nei campi di calcetto, di quelle tanta roba. Oggi finalmente si dice anche ad un uomo. Leggo qualche sms dove ci sono più sincere confessioni di donne rispetto alla garchite, rispetto a questa sindrome che abbiamo registrato da un paio di giorni, colpisce il genere femminile, e da qualche messaggio vedo anche rappresentante del genere maschile, quindi perfettamente in linea coi tempi. Di garchite si soffre sia che si sia maschi, sia che si sia femmine. Vediamo, Garco non piace solo alle donne, ma anche agli uomini, che non se lo possono permettere per eccesso di divario estetico e quindi neanche lo vogliono sognare, roba da femminismo esterco anni 70. A me sembra che le interlocutrici siano dell'epoca, quindi c'è il solito discorso, molte altre, la favola, la volpe e l'uva. Tutte quelle che disprezzano Garco sanno perché è un modello irraggiungibile di strumento di piacere. Claudia, a me fa tenerezza rispetto al tipo del tronista arrogante, mi piace la sua goffaggine, quindi c'è questo aspetto un po' micione dell'uomo che è sempre un eterno bambinone, anche se è vicino all'andropausa perché ha 45 anni, non vi fate incantare dall'incatramatura che ha in testa, in realtà sarà un signore brizzolato per cominciare ad andare verso i 50 anni. Poi vediamo un po', uno mi dice se è corto di argomenti, l'argomento del giorno, Garco, è perfettamente in linea con quello che è il dibattito politico. Poi un'altra dice se lo mangerebbe vivo e cose del genere. Alessandra, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, io volevo dire che la scelta di Garco e tutto ciò che sta scatenando tutti i giudizi siano esattamente, perfettamente convergenti con la scelta e con l'obiettivo che si voleva prefissare, che ci si voleva prefissare. Quindi? Perché e quindi lui sta assolvendo perfettamente il ruolo per il quale è stato scelto. Ma lo descriva, qual è il ruolo? Beh, il ruolo di una persona, di un bello a cui non si chiede nient'altro, altrimenti la scelta sarebbe caduta su un intellettuale, così come non si chiede nient'altro alla modella che affianca Carlo Conti. Cioè sono due personaggi che effettivamente stanno assolvendo al loro compito di belli ai quali non si chiede null'altro. Quindi... No? Sì, ma a lei cosa scatena però, voglio capire, cos'altro lei chiederebbe a, se avesse Garco davanti, tanto per essere chiarico, perché voglio capire, un modello totalmente asettico, è vero, l'altra modella, per quanto bella, per quanto sensualissima, quando interpreta i ruoli nei film, vista così, sì, è bella, è un bel manichino su cui mettono dei bei vestiti. È la bella versione, sì, è un'altra bella, abbiamo due belli ai quali cosa si chiede? Io di fronte a questa scelta cosa mi scatena Garco? Non mi scatena nient'altro che semplicemente giudizi positivi in ordine alla bellezza, al suo fascino, senza andare ad approfondire e senza andare oltre, perché non, il personaggio non richiede un oltre, il personaggio richiede commenti e giudizi estetici, punto. Alessandro, dunque, mi scrive Maria, una sua collega ascoltatrice, dice è l'equipollente umano di Ken di Barbie, piuttosto dovete scegliere Pier Francesco Favino, un gran bel cinghiale da macchia. È d'accordo che in realtà fra un possibile confronto fra Garco e Favino in realtà viene fuori questa differenza, l'uomo da osservare e l'uomo da cacciare con l'arco e le frecce, il cinghiale da macchia. Questo adesso andiamo oltre, questi sono giudizi personali, magari c'è appunto la donna a cui piace l'uomo più selvaggio, la donna a cui piace una bellezza un po' più raffinata. Questo e Garco è una bellezza raffinata? Garco è una... certo non è un bello selvaggio, risponde ai canoni estetici un po' classici, no? Gli occhi chiari, bello, alto, moro, un bel fisico, hai tante, per cui non si può dire comunque che è brutto, certo, non si può dire che sia un brutto uomo, sarebbe infame che lo dicesse questo. Però diciamo questa sua fissità, questa bella inerzia che era la chiave ispiratrice pittorica di tutti i preraffaelliti è sigillata in Gabriel Varco. La bella inerzia, come l'aveva Giotto, Cimabue e la pittura preraffaellita, è racchiusa nell'icona Gabriel Garco. Silvia. Sì. Buongiorno. Volevo intervenire dicendo che effettivamente finalmente la parità, l'emancipazione è arrivata perché abbiamo Gabriel Garco a Sanremo. Comunque suppongo che il problema deve essere spostato, sento che tutte le altre ascoltatrici intervenute sono persone di una certa età, sono donne di una certa età come me, io ho 50 anni e per cui non ritengo questa emancipazione, se poi l'emancipazione deve corrispondere con... Finalmente quello che volevo sentirmi dire, avrà il diritto la donna a dire voglio un uomo gonfiabile anch'io? Sì, va bene, ma non, per me questa non è assolutamente parità, non sto ascoltando Sanremo, non mi interessa Gabriel Carco come non mi interessa Maddalena, insomma non, io reputo che comunque, vista il target della sua trasmissione, sono donne di una certa età. No, questo me... però guardi, sì, ma no, certa età, guardi, il target va dai 35 ai in su, in cui c'è una porzione media che sono donne professioniste che possono arrivare ai 50-55 anni, che però hanno una vivacità e una capacità di vivere la loro epoca che le rende molto più giovani dal punto di vista della percezione. Questo volevo dire. Ah, ecco, bene. No, niente, io ho detto quello che volevo dire, per cui... Cioè lei vuol dire, sono tutte vecchie grazie al piffero che dicono che non gli piace, questa è la sintesi. No, assolutamente. Io sono d'accordo con la media dell'ascoltatrice che dice che... francamente di Gabriel Garco per me non è neanche tanto attraente, per cui a me non mi hanno fatto neanche contenta, premesso che non ascolto Sanremo, per cui la cosa non mi ha... Va bene, il suo è un atteggiamento, diciamo, così distaccato, leggermente sonnacchioso nei confronti di Garco. Mary, buongiorno. Ciao, buongiorno, sono io, Mary. Sì. Ovviamente la signora di primo un pochino c'ha ragione, cioè nel senso che magari una ragazzina di 20-25 anni magari impazzisce per Gabriel. Ma per ragazzine di 20 anni è un vecchio, però scusi, ha 45 anni. Come? Per le ragazzine di 20 anni è un vecchio, sì, è il padre. Però porta i modelli dei ragazzini più giovani, c'è tutto curato, sotto cigli rifatti, un po' ritocchino, così. Lei quanti anni ha, Mary? Mary, lei quanti anni ha? Io ne ho 37. Quindi lei è molto più giovane di Garco. Sì, sì. Nel senso di mezzo, però il punto qual è? Che questi uomini come le donne si vanno a rovinare nel momento in cui si fanno quel ritocchino così. Cioè Gabriel è sicuramente un bell'uomo, ci ha avuto il suo periodo che era un bellissimo ragazzo, poi pian piano si vanno a fare questi ritocchini che un pochino si vede che è un po' plastico, un po' finto. E beh, lui da contratto deve essere sempre così, il momento che sembra un po' più grande ha finito, per forza. Però ad esempio, no, voglio fare un esempio pratico sempre su Sanremo. Per esempio c'è Eros Ramazzotti, che a me da giovane non piaceva, c'era quella faccia un po' così. Visto ieri che è una figura più maschia rispetto a Garco. Sì, visto ieri sera Eros Ramazzotti era molto più carino, molto più bello, molto più uomo. Quindi cioè, si sa che anche l'uomo invecchiando migliora, quindi secondo me dovrebbe un po' stare più attento nel... ma ormai non invecchia più, mentre Ramazzotti può invecchiare e diventare anche un signore con qualche ruga, avere qualche capello bianco. Garco ormai è irrigidito, immobilizzato in questa incerta età di ventenne, venticinquenne. Non è che la plastica crea reversibilità, è come Padre Pio, rimane sempre così per l'eternità. Fermiamoci un istante, 800 24 00 24. Melog, cronache meridiane. Per commentare il festival che si può fare? Allora, per commentare il festival delle canzoni, dalle canzoni agli... Ho messo gli occhiali, ci vedo più. Infatti, te lo volevo dire, scusa, come è stato? Dalle canzoni... Hashtag, aspetta, prima c'è hashtag Sanremo 2016 per commentare il festival. Esatto. Hashtag Sanremo 2016 per commentare il festival, dalle canzoni agli ospiti. Dalla conduzione agli abiti. Perfetto. Anzi, che vuoi fare? Possiamo fare una cosa? Sì. Ti facciamo una fotina. Sì. Così la metto subito sui social. Sorridete, oh. Aspetta, Carlo, non sei inquadrato. Eccoci. Vai, vai, così. Questo è il giochino. Trova l'intruso. No, è divertente che il 45enne Gabriel Garco, per fare il giovane, fa il selfie, che dovrebbe essere una cosa da giovani, ma in realtà ormai è una cosa da pensionati in gita con i venditori di pentole, insieme a Conti, che ha un'età indefinita, che va dai 70 ai 150 anni. Della gioventù è farsi un selfie, quando ormai è una cosa che non è più così da almeno un paio di anni. Eliana, buongiorno. Buongiorno. Soffre di garchite? Ascolti. Io da sempre, diciamo, Garco non mi è mai piaciuto. Vabbè, adesso tutte vergini, improvvisamente. Le posso dire i miei gusti? Sì. Allora, a me, quando ero giovanissima, mi piaceva tantissimo Gregory Peck. Beh, sì. E adesso, pur non essendo una partita del calcio... Però spenga la radio, perché sennò c'è il fantasma, sì, okay, che parla dietro. Ok. risentirsi è bello per chi sta a casa, ma è brutto chi sta alla radio. Allora, Gregory Peck, sì, Gregory Peck, va bene, sì. Stiamo parlando però, ecco, affondiamo nel Museo Egizio, però come ispirazione di modelli. Questi sono gusti per i bei tenebrosi. Sì. E Mourinho è stato un periodo che era stato molto lanciato, era molto in voga, adesso la gente si è un po' dimenticato, però è lontanissima dal modello dell'oligarchia. Appunto, perché a me mi piaceva piuttosto gli uomini rudi ma affascinanti nello stesso tempo, non quei belloci, quelli lì tutti atteggiamenti, a me non, per me è così. È un modo di dire, però mi meraviglia che la furia e la follia che colgo sui social network delle entusiaste di Garco improvvisamente qui non si manifestino. Si manifestano signore dai pacati sensi, stimolati secondo un canone tradizionale, dal bel tenebroso, dall'uomo cinghiale, dall'uomo che ha profondità. Nessuna che dice sì, però questo è bello, lo attacco alla pompetta, lo gonfio, me lo metto lì e chi vuole di più? Finché mi va me lo tengo, poi stacco la valvolina e lo rimetto nel cassetto. Monica Lanza, buongiorno. Buongiorno. Monica Lanza, presidente del Fuga, che aveva avuto un piccolo incidente, era, mi sembra, al pronto soccorso, adesso nuovamente per noi. Qual era il suo problema? Garchite conclamata. Proprio. Quindi è vero, funziona, esiste questo problema. Sì, sì, esiste, perché io ho questo dito che è impresentabile, anzi, ho questo dito medio, devo tenerlo su mentre telefono, sembra un po' maleducato. Ecco, spieghi l'uso improprio del dito, se no può esserci un'area equivoca. Come mai? A forza di commentare le mirabolanti avventure di Garco sul palco, perché io l'ho trovato molto divertente e molto giusto che lui fosse lì in quel momento, quindi a forza di commentare mi si è gonfiato il dito a dismisura. Sembra un po' il pastrello di un ranocchio. La malattia però... professionale, diciamo, sì, come sì, il tunnel, sì, carpale, esatto. Se fosse stata davanti a un desktop. Allora, vediamo di capire, poi di analizzarla. Lei ha ascoltato qualche telefonata. Rispetto, diciamo, alle vostre scritte del Fuga, che ormai hanno come loro missione, come ragione sociale, l'individuazione e, diciamo, l'emarginazione del farlocco stanco, come si pone Garco? È la versione, diciamo, cyber del farlocco stanco classico o non è assolutamente un'altra categoria nuova che studiamo oggi sentendone i segni dolorosi nella nostra carne? È un farlocco svampito, è divertente perché fa ridere comunque. Quindi è meglio un garco che uno di quei puzzolenti che ogni tanto descrivete nelle vostre sessioni. Sì, sì, sì, assolutamente. Questo fa ridere, te lo metti in casa e è come avere un giullare di corte, è fantastico. È solo invecchiato male, ma questo è anche il suo bello. Non è Harrison Ford che può ancora fare dei film e piace ancora, non è quell'attore che aveva fascino prima e quindi ne acquista con l'anzianità. Questo è invecchiato come una soubrette stanca. Quindi potrà fare Art Attack fra un po' al massimo. Ah, la cosa bella è che finalmente a un festival di Sanremo ci sono queste componenti maschili un po' farlocche, così, anche divertenti, ma rispetto alle due donne che ci sono sul palco sono assolutamente in ombra, perché c'è la Raffaele che oltre ad essere molto bella ha anche un grandissimo talento, la Valletta, la Maddalena Ghenea, che doveva sembrare la classica bella muta, invece ha dimostrato di sapere le lingue, di sapersi comportare, anche intelligente, quindi sì, è più intelligente che figa, questo è lo sbaglio che hanno fatto in realtà, voleva una stupida ma bella, invece per quanto uno può averla vista come modello sensuale nei film, lì non è figa al punto di far venire la bavetta alla bocca al maschio seduto in prima fila sul divanetto in canottiera, ma è soprattutto intelligente, strano, stranissimo, però è così. Fermiamoci un secondo, Giulia, buongiorno, tanto Monica Lanza prende fiato, Giulia. Buongiorno, intanto complimenti per l'originalità dell'argomento. Come lei dice, è ironico o lo dice seriamente? No, lo dico seriamente. No, perché ci sono una serie di ascoltatori che mi dicono: non avete altri argomenti oggi di questa stupidaggine? No, guardi, io invece le faccio i complimenti perché mi sto divertendo. Poi dovrò ascoltare Radio 24 per ora, il pomeriggio parlate troppo di calcio per me. Beh, non è la mia, il mio campo preferito. Sì, a differenza delle signore che hanno chiamato prima, io trovo Garco bellissimo. Oh, finalmente, qualcuna sincera. Non parlo delle sua prestazione professionale a Sanremo perché non guardo Sanremo, però come uomo... Quanti anni ha lei, Giulia? Scusa se lo domando, ma è importante alla fine termine statistico? Tanti. Io ne ho 52 e vabbè, lavoro il suo coetaneo. Solo con uomini. Sì, però è un suo coetaneo più o meno, eh? Sì. Infatti io trovo che l'uomo a 45 anni sia al massimo del suo splendore, non un vecchio, anzi deve comportarsi da giovane perché lo è effettivamente, è maturo e poi è proprio bello. Allora senta Giulia, quale nuova categoria della mascolinità sta anticipando il modello Garco? Perché io lo considero un'apripista, perché è la speranza per tanti 45enni, poi anche cinquantenni che in fondo si somigliano un po' tutti. È quella la strada del nuovo fascino? Perché finora avevamo un po' di incertezza, non capivamo bene, soprattutto gli uomini particolarmente curati nel loro fisico, accusati di avere atteggiamenti femmini, erano di età inferiore. Un 45enne oggi che si imbambolottisce come un ragazzino che va dall'estetista, è la strada giusta per riacquistare fascino e credibilità? Guardi, io non lo so, io credo sia molto positivo per noi donne, è una rivalsa nostra, perché fino a poco tempo fa erano gli uomini maturi che potevano girare con queste bambole e quindi tutti a dire ah, effettivamente, oggi noi possiamo sperare di poter frequentare uomini come Garco, perché no, bellissimi, prestanti, magari anche facoltosi, e goderci qualche serata con lui, solo che probabilmente lui cercherà compagnie molto più giovani. Ma non è detto, dipende. Nella sua storia amorosa ci sono donne più grandi di lui, la Grimaldi aveva più di 10 anni più di lui, è stato un grande amore, quindi è un sollazzatore, ecco, di signore mature. Quindi, guardi, è una conquista femminile per me. Sono convinto anch'io, questa è la chiave finale di tutto. Finalmente anche le donne possono uscire con un uomo disimpegnato, disimpegnante, che non deve prendersi nessuna responsabilità, ne prende soltanto carico del loro piacere. Giulia. Perfetto. Giulia ha parlato, finito. Monica Lanza, hai quest'ultima telefonata, è in linea con quella che è la linea ideologica del Fuga, oppure è un'espressione anarchica rispetto alla vostra linea politica? No, va bene anche quello disimpegnato, così, anzi meglio, così non rompe le scatole. Sì, il Garco è perfetto per queste cose qui, ma soprattutto perché fa tanto ridere, anche se non lo sa, fa tanto ridere. Quindi alla facoltà primaria dovrebbe avere un uomo di far ridere, di tenere allegri, di tenere su, di portare leggerezza. Eh beh, sì. Se lo immagina senza problemi. Garco è l'uomo senza problemi, è l'uomo che sorride sempre, è l'uomo che tutte le donne hanno diritto di avere accanto. Ci ingarchiremo tutti noi e finalmente la garchite sarà il segno fondamentale della rinnovata pace tra i generi, al di là di quello che si sta dicendo in Parlamento. Alla prossima!